Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo. Beh, credo che starete comprendendo tutti, naturalmente, le parole del presidente brasiliano Bolsonaro. E si aggravò durante il giorno di segunda-feira. Si è preso il Covid-19, lo ha confermato nel corso di un incontro con i giornalisti oggi, con aria piuttosto affranta e anche un po' preoccupata. Aveva la febbre alta, dice oltre 38, si sentiva a pezzi, con dolori alle ossa e muscoli, classici sintomi del Covid-19, e quindi i medici hanno consigliato di farsi ricoverare. Vi ricordo che Bolsonaro, presidente brasiliano, dall'inizio è stato uno dei principali negazionisti nel mondo, tanto che il Brasile è arrivato ad avere dei numeri di contagi e di morti altissimi. Ha sostenuto poi che per affrontare la pandemia bastavano alcuni farmaci, alcune pasticche per la malaria. Non è bastato, evidentemente, e il paese tra l'altro è scioccato davanti anche a questa ammissione. Roberta Giordano naturalmente con voi per ripartire con una nuova puntata ricchissima di notizie, di aggiornamenti, di approfondimenti con gli ospiti di Effetto Notte. Fra le molte cose vi parlerò del decreto semplificazioni che è passato nella notte e delle tante opere che quindi dovrebbero essere finalmente sbloccate per il rilancio economico dell'Italia. E poi l'appello di nuovo, alcuni allarmi che lanciano di nuovo i presidi per quanto riguarda la scuola che dovrà ripartire il 14 settembre. Sui test sierologici, insegnanti, personale, eccetera, e sul numero di classi, di molte migliaia di classi che potrebbero mancare perché non ci sono istituti, alcuni istituti non sono adeguati alle nuove misure di sicurezza. E poi ci saranno anche altri aspetti, come per esempio la fuga di alcuni neopresidi da scuole del nord, e capiremo perché. E poi un intervento eccezionale che è stato fatto a Bambin Gesù di Roma, di due gemelline africane che erano unite per la nuca per tutto il primo anno e mezzo della loro vita. Hanno fatto veramente questa operazione unica al mondo. Ne parleremo direttamente con il responsabile della neurochirurgia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Quindi non aggiungo altre parole, se non precisando, come sempre, che potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure inviare i WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666, Twitter durante la diretta, quello di Effetto Notte, oppure Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. Il bollettino sul coronavirus in Italia: sono 138 i nuovi casi, 30 i morti in un giorno, terapie intensive vuote in 14 regioni. Il coronavirus nel mondo: sono 200.000 le persone morte in Europa a causa del Covid-19, secondo un calcolo dell'agenzia France Press. E il presidente brasiliano Bolsonaro ammette: sono positivo al coronavirus e per la prima volta appare con la mascherina. Le misure economiche: via libera al decreto semplificazioni, allo sblocco di 130 opere strategiche, strade, ferrovie, acquedotti. E Conte sottolinea: l'Italia deve correre, ma niente spazio al crimine. Scuola: l'allarme dei dirigenti scolastici sugli spazi mancanti per settembre e la fuga di neopresidi dal nord. A Effetto Notte ospite il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Intervento eccezionale: separate al Bambin Gesù due gemelline siamesi unite per la testa. Ospite a Effetto Notte il responsabile della neurochirurgia dell'ospedale. Calcio: Serie A maschile, in campo Lecce Lazio, alle 21:45 c'è il Milan tra la Juventus e lo Scudetto. Partiamo quindi come sempre dai dati quotidiani aggiornati sul coronavirus in Italia dal Ministero della Salute. Cala il numero dei nuovi contagi in Italia, 138 contro i 208 del giorno precedente, a fronte però di meno tamponi. Forte rialzo invece del numero dei decessi, 30 contro gli 8 delle 24 ore precedenti. E intanto sotto osservazioni focolai di varie regioni, dal Veneto all'Emilia Romagna, dalla Toscana al Lazio. A Roma almeno 21 casi positivi riscontrati sull'ultimo aereo proveniente dal Bangladesh, di cui la decisione del ministro della Salute Speranza di sospendere per una settimana tutti i voli da Dacca. In Veneto invece misure più stringenti, in particolare per chi arriva dall'estero, con la nuova ordinanza del governatore Zaia dopo il focolaio importato da un imprenditore vicentino dalla Serbia. E per la scuola intanto si fa strada la proposta del comitato tecnico scientifico di test sierologici per tutto il personale oltre 2 milioni di lavoratori nei 15 giorni precedenti l'inizio dell'anno scolastico. Così l'epidemiologo Pierluigi Lopalco a Effetto Giorno. Un buon passo, può dare delle informazioni importanti sulla circolazione del virus in questo gruppo di popolazione, quindi aggiunge un tassello in più di sicurezza quello che deve essere una ripresa dell'anno scolastico in sicurezza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E degli aspetti relativi alla scuola e di alcune preoccupazioni segnalate dai presidi parlerò nel corso di questa puntata appunto con il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi e sarà il commissario all'emergenza Domenico Arcuri a occuparsi della fornitura di gel, mascherine e arredi scolastici che saranno necessari per far ripartire la scuola a settembre. Lo prevede una norma contenuta nella bozza del decreto semplificazioni. Protesta però Matteo Salvini, leader della Lega, che dice ha fallito sulle mascherine Arcuri e per premio il governo lo manda a occuparsi delle scuole dei nostri figli. Passiamo alle misure economiche del governo per rilanciare il paese fiaccato dal lockdown, un trampolino per il rilancio dell'Italia. Il presidente del Consiglio Conte descrive così il decreto semplificazioni approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri con la formula salvo intese. Il provvedimento prevede procedure più snelle per sbloccare appalti e cantieri e una revisione del reato di abuso di ufficio. Via libera anche all'elenco di 130 opere considerate strategiche. Per alcune si potrà nominare un commissario come fatto per l'Expo e per il Ponte di Genova. Lo definisce il trampolino di lancio per il paese, così dopo la lunga notte a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte illustra il decreto semplificazioni varato salvo intese. Il provvedimento serve a far correre il paese, ma con controlli serrati sulla criminalità organizzata. Alziamo, per così dire, il limite di velocità dell'Italia che deve correre, ma al contempo rafforziamo anche i presidi di legalità. Gli autovelox, noi non vogliamo assolutamente offrire spazio agli appetiti criminali che alterano la concorrenza e ovviamente conseguono guadagni indebiti. Pieni poteri alle stazioni appaltanti, spiega Conte, niente gare sotto i 150.000 euro, abuso d'ufficio circoscritto ma non abolito, così nella pubblica amministrazione ci saranno più rischi per il funzionario che blocca l'opera per evitare la paura della firma. I commissari previsti solo per le opere che li necessitano, un piano di rilancio e snellimento del paese. In Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato l'elenco di 130 opere strategiche. Andremo quindi a realizzare speditamente alcune di queste opere. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel corso della puntata entreremo più nel dettaglio di questo provvedimento del governo tra poco. Opere quindi che si sbloccano. Intanto l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sul Ponte di Genova avverte da Aspi poca trasparenza e Liguria oggi ancora code in autostrada. Mentre la Liguria, in particolare il nodo di Genova, viveva l'ennesima giornata di code, da Roma la notizia che in attesa di una legge sui controlli più chiara ed omogenea, sin da ora per le verifiche nelle gallerie, il Ministero autorizza metodi più moderni come per esempio l'utilizzo dei georadar, vuol dire quindi cantieri più veloci e forse qualche disagio in meno. Nel frattempo, sulle concessioni, il Premier Conte lancia l'ultimatum ad Autostrade, boccia le proposte di Aspi e dice se non accetta le nostre condizioni, sì, procederà con la revoca. Nelle stesse ore, per il crollo del ponte Morandi, Autostrade finisce nel mirino di ANAC. In commissione lavori pubblici al Senato, il presidente Francesco Merloni ha parlato di scarsa collaborazione con l'autority e soprattutto di manutenzioni insufficienti rispetto ai piani finanziari. Una contestazione questa rivolta in generale a tutte le concessionarie autostradali. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si cerca dunque di far ripartire il paese anche attraverso le opere pubbliche, preoccupano però i dati che arrivano dalla Commissione europea sull'economia dell'Italia. Peggiorano nell'arco di soli due mesi le previsioni economiche della Commissione europea che pongono l'Italia all'ultimo posto nella classifica di crescita con un crollo del PIL previsto quest'anno all'11,2%, l'Eurozona nel suo complesso arretrerà dell'8,7% e se la ripresa nel 2021 dell'area euro intorno al 6% dovrebbe ribilanciare le perdite, l'Italia recupererà solo metà del PIL andato in fumo. La recessione è ancora più profonda delle attese e con divergenze più ampie, sintetizza la Commissione. We see widening divergences. Il commissario agli affari economici Gentiloni avverte per evitare un aumento ulteriore delle divergenze occorre varare entro luglio il Fondo Europeo per la Ripresa proposto da Bruxelles e il collega Dombrovskis non nasconde i timori per le conseguenze economiche di una seconda ondata pandemica. Le divergenze intraeuropee stanno tutte nei numeri che rispecchiano i fronti pronti a darsi battaglia al summit di metà luglio. Austria, Olanda, Finlandia e Svezia vedono cali del PIL compresi tra il 5 e il 7%, poco più della metà del nostro. Roma è in buona compagnia con Madrid e Parigi, con crolli superiori al 10%. Sull'Italia si abbatte pure il monito OCSE. La penisola si avvia verso una disoccupazione al 12,4% a fine anno. Occorre agire rapidamente per aiutare i giovani, anche rinnovando significativamente il programma Garanzia Giovani. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito della crisi provocata dal coronavirus, oltre un'azienda su tre in Italia potrebbe essere costretta a chiudere a causa della pandemia, secondo l'Istat, a rischio 6 alberghi e ristoranti su 10. Un impatto sulle imprese senza precedenti, quello della crisi nata dal Covid-19 e dal lockdown successivo. Quasi il 39% delle imprese italiane, pari al 28,8% dell'occupazione, circa 3,6 milioni di addetti, ha denunciato l'esistenza di fattori economici e organizzativi che ne mettono a rischio la sopravvivenza nel corso dell'anno. Il pericolo di chiudere è più alto tra le micro imprese e le piccole, ma è significativo anche tra le medie e le grandi. Tra i settori più colpiti, quelli del turismo e della ristorazione, 800.000 i posti di lavoro a rischio per comparti che valgono quasi 20 miliardi di euro di valore aggiunto. A rischio chiusura entro un anno anche il 61,5% delle aziende dello sport, cultura e intrattenimento. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un segnale però di speranza arriva dagli Uffizi. Secondo il direttore Schmidt, nella prima fase di riapertura post lockdown il turismo alle gallerie degli Uffizi è stato nazionale, ma ora dice stanno tornando gli stranieri, un 10% soprattutto di Francia, Germania e Inghilterra. E allora spostiamoci all'estero, sono 200.000 le persone morte in Europa a causa del coronavirus, secondo un calcolo dell'agenzia France Press basato su dati ufficiali. Due terzi delle vittime sono state registrate in Gran Bretagna, Italia, Francia e Spagna, con 200.005 morti per su 2.751.606 casi. L'Europa torna a essere il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha ucciso 538.418 persone in tutto il mondo. E Regno Unito e Italia sono i paesi europei che hanno avuto più morti, seguiti da Francia e Spagna. E si attendeva oggi il risultato del test sul presidente brasiliano Bolsonaro. Il risultato è arrivato nel tardo pomeriggio. Do risultato. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo. Il numero uno del Brasile, il presidente Bolsonaro, è positivo al coronavirus e lo annuncia in diretta TV, rivelando egli stesso l'esito del tampone effettuato lunedì. Sto bene, farei una passeggiata, ma non posso, minimizza Bolsonaro. Lunedì il presidente del Brasile aveva tosse e febbre, si è così deciso di effettuare il tampone e oggi è arrivato l'esito positivo. Bolsonaro da sempre sostiene che le misure di contrasto all'epidemia non sono necessarie o comunque non devono frenare l'economia. Spesso è stato fotografato senza mascherina. Il 4 luglio è stato immortalato senza protezioni anche alla festa nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile. Ora anche il diplomatico americano sarà così sottoposto al test. Il Brasile, dopo gli Stati Uniti, è fra i paesi più colpiti dall'epidemia, con oltre 1.600.000 malati e quasi 66.000 morti. Complessivamente nel mondo si registrano più di 11.600.000 casi Covid e i decessi superano quota 538.000. Nelle ultime 24 ore l'Iran ha il maggior numero di morti, 200 in un giorno, mentre l'India ha superato la Russia ed è diventata terzo paese al mondo per malati. In Australia, a Melbourne, è invece scattato il lockdown per 5 milioni di persone. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, con questo intervento eccezionale, separate all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma due gemelline siamesi centroafricane unite dalla nuca. È il primo caso in Italia, probabilmente l'unico al mondo, di un intervento riuscito del genere. A un mese di distanza le bambine stanno bene, e per parlare di questa operazione eccezionale sarà ospite Effetto Notte, responsabile di neurochirurgia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Parliamo di Alex Zanardi, che è stabile, rimane in coma farmacologico e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena dopo il nuovo intervento maxilofacciale e neurochirurgico a cui è stato sottoposto per la ricostruzione cranio-facciale e la stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all'incidente del 19 giugno scorso. Le sue condizioni cardiorespiratorie e metaboliche sono stabili, il quadro neurologico rimane invece grave. Riposa da questa mattina in una tomba del cimitero Laurentino a Roma, Ennio Morricone. Dopo i funerali celebrati in forma privata ieri sera alle 19 nella cappella più grande del campus biomedico, l'ospedale romano dove il premio Oscar si era spento nella notte. E per un giorno le note di Ennio Morricone risuoneranno nella metropolitana di Roma. Questo è uno degli omaggi che la capitale, per volontà della sindaca Virginia Raggi, si prepara a tributare al grande compositore. Ancora non è stata fissata la data, ma per 24 ore si è deciso che i brani più celebri risuoneranno tra le banchine, i corridoi, le fermate e i convogli della metro di Roma. E la parola invece passa adesso al nostro Dario Ricci, c'è la Serie A maschile in campo. Caro Dario, vedo che Lecce prevale per il momento sulla Lazio? Sì, Roberta, sinfonia tutt'altra musica quella che sta suonando la Lazio a Lecce rispetto a quella che abbiamo appena sentito, perché all'83esimo di gioco i biancocelesti sono sotto per 2-1 nella parte conclusiva di una partita che ha avuto diversi cambiamenti di senso e diverse emozioni. Infatti Lazio in vantaggio subito al quinto minuto con Caicedo, però al 30esimo disattenzione della difesa biancoceleste e Babacar di testa ha siglato il pareggio. Allo scadere del primo tempo, controverso calcio di rigore assegnato dall'arbitro Maresca al Lecce, ma Mancosu, con una rincorsa a dir poco grottesca, ha calciato incredibilmente alto sulla traversa della porta difesa da Stracoscia. Lecce che però si è rifatto immediatamente all'inizio del secondo tempo con Lucioni che, situazione di calcio d'angolo di testa, ha siglato il 2-1. Lazio che ha avuto poi un paio di ottime occasioni per pareggiare, bravi in queste circostanze difensori leccesi. Anche il Lecce ha sfiorato il raddoppio, ma insomma siamo all'85esimo, 2-1 per il Lecce, e ricordiamo che in questo caso rimarrebbe inalterato il distacco della Lazio da quella Juventus che alle 21:45 sarà in campo a San Siro contro il Milan. E ci racconterai poi dopo anche di questa partita, grazie al nostro Dario Ricci. È tempo adesso di aggiornare chi sta viaggiando, torno tra pochissimo, Rata con la Folgore, mentre Luigi al WhatsApp al 349-238-6666 dice: c'è una canzone di John Lennon che sembra scritta apposta per Bolsonaro, dice Instant Car. Ma me l'andrò a riascoltare. Ci sentiamo. Hai visto la nuova Fiat 500 X Sport? Nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? Nuova 500 X Sport, totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500 X con zero anticipo e zero rate nel 2020. E poi da 14.700 euro oltre oneri finanziari con finanziamento anziché 16.400 euro. TAN 685 TAI GOT 51, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 luglio, info su fiat.it. Le concessionarie Fiat sono aperte e ti aspettano in tutta sicurezza. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi di informazioni, sintesi della giornata, di aggiornamenti in diretta, dei vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i WhatsApp al 349-238-6666, di approfondimenti con gli ospiti che comincerò a fare tra pochissimo, mentre un ascoltatore o ascoltatrice non si firma, dice saluti da Berlino, perché dovete sapere che Effetto Notte è ascoltata in tutto il mondo, dall'Australia alla Germania alla Spagna, agli Stati Uniti, anche dall'Africa. Ci sono diversi italiani che ascoltano proprio a fine giornata per avere questo quadro più possibile chiaro e esauriente di quello che è di più importante successo in Italia e nel mondo. Io mi aspetto molto da questo decreto, e se volete sapere se sarà anche oggetto del nostro confronto, certo, mi vanterò di questo decreto, ci dovremo vantare, ci dobbiamo tutti vantare, tutta l'Italia deve vantarsi di questo decreto, ma ancor più dovremo vantarci dei risultati che confidiamo di conseguire attraverso anche questo decreto. Quindi Conte dice che si deve vantare il governo, e anche noi dobbiamo vantarci del decreto semplificazioni che finalmente, diciamo, nella notte ha trovato la sua strada d'uscita, il suo via libera. Si vede che la notte ha portato consiglio, e su questo saluto il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Tu ti vanti di questo decreto semplificazioni? Hai diritto anche tu, se vuoi. Lo spirito tende al patriottico, però non al vanesio, diciamo la verità. Quindi aspettiamo il testo definitivo e i provvedimenti attuativi, vediamo se le promesse poi riescono a tradursi in sforzi reali. La cornice illustrata oggi è sicuramente importante, ci sono alcune cose che meritano attenzione. Allora, lui l'ha definito Conte. I guai sono nei dettagli. Nei dettagli. Allora, vediamo di scendere un pochino più nei dettagli. A parte che Conte definisce questo decreto semplificazione un trampolino di lancio, e poi dice soprattutto la cosa, diciamo, più una delle più rilevanti di questo decreto semplificazione è lo sblocco dei cantieri. Sentiamo Conte che dice: sblocchiamo i cantieri. Nella settimana di confronto che c'è stata a Villa Panfili con le parti sociali, le associazioni di categoria, le autorità locali, i professionisti, i cittadini comuni, è stato corale l'appello a ridurre la burocrazia, a far correre il nostro Paese. Noi siamo stati sempre convinti di questa priorità e adesso l'abbiamo concretizzata con un decreto che finalmente semplifica, velocizza, digitalizza i procedimenti amministrativi, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Perché sappiamo che il nodo su cui non si trovava l'accordo nel governo era questo degli appalti. Il PD voleva che non ci fosse troppa, come si dice, deregulation, cioè che non fossero levate troppe regole, troppi filtri, troppi blocchi, perché da una parte è vero che si deve snellire, semplificare, velocizzare, no, gli appalti, le opere strategiche, eccetera, dall'altra però si aveva paura, insomma, delle infiltrazioni criminali, mafiose, eccetera. E Conte a questo punto ha fatto oggi in conferenza stampa l'elenco delle opere, per almeno delle più importanti. Andremo quindi a realizzare speditamente alcune di queste opere: alta velocità di rete Salerno-Reggio Calabria, alta velocità di rete Palermo-Catania-Messina, che va in gara già quest'estate, alta velocità Pescara-Roma e Pescara-Bari, alta velocità ancora Genova-Ventimiglia, alta velocità Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica, ampliamento della Salaria, fronte laziale anche marchigiano, ampliamento della Pontina, la Ragusana, commissariamento anello ferroviario di Roma, ponte sullo Scrivia in Liguria, stiamo parlando della 7, invece di manutenerlo lo demoliamo e lo ricostruiamo, ferrovia Pontremolese La Spezia Parma, potenziamento Agrigento Caltanissetta, alta velocità Brescia Verona, commissarieremo 9 dighe sarde. Insomma, Alberto, quindi diciamo in questo decreto semplificazioni soprattutto appalti più semplici, una corsia preferenziale, no, sull'ispirazione del cosiddetto modello Genova, che ha permesso di costruire il nuovo ponte in poco tempo. Sì, ci sono due soglie per gli appalti senza gara, sostanzialmente. La prima, che sale da 40 a 150 mila euro e può essere fatta con l'appalto diretto. La seconda, che arriva a 5,2 milioni di euro, che è una soglia europea, che si può fare con la negoziazione, per così dire, privata con 4 o 5 aziende competitor, senza bisogno di dire una vera e propria gara, che il committente sceglie sulla sua responsabilità l'offerta migliore, senza avere procedure di gara, però che prenderebbero molto più tempo. Questo è sicuramente uno snellimento. L'altro riguarda per l'appunto i commissari. Non è passato il modello Genova esteso per tutti, perché Genova vuol dire deregulation totale, che non andava bene a PD e all'EU, ed è stato oggetto di un contenzioso lungo che è durato tutta la notte sostanzialmente, tanto che questo decreto è praticamente una specie di accordo sindacale tra i maggiorenti del governo, perché è stato frutto di un'estenuante trattativa notturna, come erano un po' una volta i contratti nazionali dei metalmeccanici, quelli mitici degli anni 70. È importante perché però è stata utilizzata una formula un po' più light sui commissari. Berichelli ha annunciato che si appresta a sbloccare 150 opere, una trentina saranno affidate a formule di commissariamento, però per problemi giuridici, una parte dei quali è legata poi ad appalti che riguardano la sicurezza, cioè caserme, messa in sicurezza di caserme o costruzione di siti militari, quindi sicuramente non sono appalti normali. Per il resto, poi lo citava prima anche il Premier Conte, c'è una questione di commissariamento sulle dighe della Sardegna, che è una cosa antica su cui non si riusciva a intervenire, e poi c'è un'altra norma molto importante, che è quella che impedisce che a fronte di un ricorso, magari da parte del secondo competitor che ha perso l'appalto e non ha vinto la gara, l'appalto debba andare avanti e quindi la costruzione, il cantiere, l'opera interessata al contenzioso giudiziario non debba essere interrotta. Invece questo era uno dei grandi problemi, che a fronte di un ricorso da parte di una delle aziende sconfitte, l'appaltante, per lo più l'amministrazione, bloccava i lavori perché non si riteneva sicura. Questa cosa non accadrà più, così come non accadrà più il problema del del danno erariale e dell'abuso d'ufficio, che sono i due reati classici che hanno creato la cosiddetta burocrazia difensiva, che ha indotto nel corso del tempo questo atteggiamento da parte poi dei dirigenti, dei grancomi pubblici, di non firmare gli atti e di per paura tutto, poi per paura di finire di non so in qualche guaio dei conti o peggio nel penale. Invece oggi Conte ha precisato saranno più penalizzati quelli che per non far nulla staranno per non rischiare staranno lì bloccati, quindi lasceranno in stallo tutto, anche le opere strategiche, rispetto invece a chi si prenderà la responsabilità, naturalmente seguendo vie legali, no, e firmando e mandando avanti le opere importanti. Fra l'altro, decreto semplificazioni con tante cose dentro, ma affiancato anche dal cosiddetto decreto Italia Veloce, no? Quindi strade, treni, dighe, ci sono anche 36 opere, come dicevo, illustrato esatto, dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esatto, è un corollario, come dicevo, appunto di grandi lavori che servono a irrobustire il sistema di mobilità del paese, auspicabilmente in tempi celeri. È pur vero che quel tipo di slogan li abbiamo sentiti tante volte, sbloccare i cantieri, c'era una legge che si chiamava sblocca cantieri di vari gestite da vari governi. Così Salvini come dice che è l'ennesima digitale. Bufala, l'ennesima bufala. No, ma ecco, quello poi diventa propaganda, diventa politica da social network. Ecco, invece sicuramente ci sono degli spunti interessanti. Bisognerà vedere come evolverà la fase attuativa, perché ripeto, il contenzioso su queste materie è sempre dietro l'angolo e la burocrazia ha sicuramente l'ultima parola, quindi la sfida è grossa, interessante. Alcuni esodi, quelli che dicevo prima, sono cose fattuali, nuove, che possono davvero modificare il quadro di riferimento per alcune realtà, e questo sarà importante se si riuscirà a rendere attuative queste misure nel più breve tempo possibile. Non ci resta che vedere. Dunque, grazie al nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao, buon lavoro. Piccola pausa di riflessione, come sempre, di sospensione di respiro. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, numero per WhatsApp. Elena, a proposito dell'allarme dei presidi che parlano appunto di mancanza di aule per settembre, poi anche della fuga di alcuni presidi dal nord che rinunciano al loro ruolo, dice: sui presidi sono basita, se rinunciano al posto, please che sottoscrivano che è per sempre. Poi ne parleremo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte da qualsiasi parte del mondo, come ci salutava prima Stefano da Berlino e poi da molti altri posti intorno al globo, siete al posto giusto, nel momento giusto, sempre con voi Roberta Giordano. Adesso voglio parlarvi di un intervento davvero eccezionale che è stato compiuto al Bambin Gesù di Roma, con due gemelline unite per la nuca, due gemelline siamesi che sono state separate con successo. C'è voluto però certamente un'operazione così complessa, così delicata, ha previsto insomma una preparazione di oltre un anno, un gruppo di specialisti di più aree, l'uso di tecnologie avanzatissime, tre interventi di cui l'ultimo, pensate, è durato 18 ore e il coinvolgimento di 30 tra medici e infermieri. Un intervento record, il primo eseguito in Italia, appunto al Bambin Gesù di Roma, e direi probabilmente l'unico al mondo. Pensate che queste bambine erano unite per il cranio e gran parte del sistema venoso in comune. Ovviamente ne voglio parlare con Carlo Efisio Marras, che è responsabile di neurochirurgia all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Buonasera dottor Marras. Buonasera a tutti. Quindi si può dire che è unico al mondo questa operazione così straordinaria? Il risultato è certamente importante e unico, in quanto per la prima volta questo tipo di situazione, di malformazione, ha permesso di raggiungere l'obiettivo, ovvero quello di separare le due gemelline, permettendo alle bambine una vita normale. Per cui l'importanza di questa procedura è proprio questa, cioè le bambine hanno tutte le condizioni per poter svolgere una vita come le loro coetanee. La loro storia è molto bella, perché tutto è partito nel luglio del 2018 con la presidente del Bambino Gesù di Roma, qualche volta è stata ospite qui a Effetto Notte, che in missione in Centrafrica ha incontrato queste due gemelline, ha visto la loro condizione, ha voluto poi portarle in Italia appunto perché fossero operate al Bambino Gesù di Roma. Senta, fra l'altro veramente non so immaginare come, anche avendo in comune l'apparato venoso, come siete riusciti insomma a dividerli in modo che tutte e due possano avere poi una loro vita indipendente, sana, dottor Marras. Certamente la tecnologia ci ha aiutato, cioè la possibilità di avere sistemi che ricostruissero tridimensionalmente l'anatomia di questa complessa situazione, e la possibilità di utilizzare queste immagini in corso della procedura con i sistemi chiamati neuronavigatori, e ci ha permesso di raggiungere un importantissimo obiettivo. Lei faceva riferimento a un tempo piuttosto lungo del trattamento, durato un anno, e certamente ha previsto la pianificazione ma anche l'esecuzione dell'intervento in varie fasi, proprio per permettere alle bambine e al loro rispettivo sistema venoso di adattarsi pian piano con la sequenza degli interventi che loro periodicamente affrontavano. Sono tre le fasi principali in questo senso della separazione della parte venosa. Dottor Marras, adesso allora, l'operazione è avvenuta il 5 giugno, l'ultimo intervento, hanno potuto festeggiare il loro secondo compleanno il 29 giugno, vedevo guardandosi per la prima volta negli occhi queste bambine, però sono ancora ricoverate in ospedale, giusto? Sì, sì, certo. Devono sono ancora ricoverate nel nostro reparto di neurochirurgia e adesso affrontano la fase di cicatrizzazione della cute, che è stata comunque trattata affinché quella parte esposta del cranio dopo la separazione potesse appunto riconsolidarsi. Le bambine continueranno il percorso di riabilitazione necessaria perché con la separazione la loro capacità di controllare il capo è cambiata radicalmente, per cui ci sarà un percorso non lungo che le permetterà anche di raggiungere questa nuova dimensione. Quindi potranno vivere normalmente, dottor Marras, a parte un periodo di riabilitazione, poi le loro vite saranno normali. Il controllo di risonanza magnetica post-operatoria ci dà un dato importante di integrità del sistema nervoso di entrambe le bambine, e la loro vitalità, capacità di interazione, motilità ci dà la seconda risposta, cioè di un futuro molto bello per entrambe. La madre ovviamente è felicissima e si augura addirittura che facciano studi medici, dice: io non ho potuto studiare, immaginiamo appunto la vita difficile che può aver avuto, però si augura che possano diventare delle dottoresse. E grazie e complimenti a voi del Bambin Gesù, Carlo Efisio Marras. Grazie dottore. Grazie, un saluto grazie a tutti, arrivederci. Grazie. E c'è la viabilità. Salta sulla tua nuova Alfa Romeo e vai! Ma se la metti in pausa, parte il risparmio! Per te nasce l'Easy Smiles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, noleggia Alfa Romeo Stelvio da 399 euro al mese, anticipo zero e servizi inclusi. Fino al 31 luglio, info su alfaromeo.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E concentriamoci adesso sul tema della scuola, che come sapete è un tema delicatissimo in Italia dall'inizio dell'epidemia di coronavirus. Prima perché c'è stata ovviamente la necessaria chiusura con tutti i problemi conseguenti, poi le polemiche tra chi ha chiesto per diverso tempo ma perché non aprirla prima e chi invece, come il governo e anche il comitato tecnico scientifico, anzi che era il consulente del governo, che diceva che era troppo rischioso aprire, anche perché diciamo che le prime vere aperture anche delle altre attività ci sono state all'inizio di maggio e quindi praticamente la scuola era lì come anno scolastico per finire. Poi la questione della didattica a distanza, che non è funzionata per tutti, ma ovviamente il nostro paese, come penso anche di diversi altri paesi, non era particolarmente preparata l'Italia a una situazione di questo tipo. E poi in seguito, per la lunga attesa, per decidere quando sarebbe stata la data della riapertura, e nei giorni scorsi finalmente la ministra Azzolina dell'Istruzione ha annunciato che sarà il 14 settembre, e ovviamente le linee guida che sono state formulate per riaprire a settembre in sicurezza. Però il dibattito e le preoccupazioni sulla questione della scuola non si sono esauriti, e i presidi lanciano dei nuovi allarmi. Per esempio, riprendono la questione delle migliaia di locali che dovranno essere trovati in tutta Italia, perché per alcune scuole che non sono, diciamo, non hanno le condizioni per una riapertura in sicurezza, non potranno essere utilizzate da molti studenti, si parla di molte classi. Poi i test sierologici da fare prima dell'inizio dell'anno a insegnanti e personale amministrativo, eccetera. E poi c'è anche un'altra questione, che è la fuga dei presidi dal nord. Ma andiamo per ordine con Antonello Giannelli, ormai conoscete tutti da tempo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. Professor Giannelli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Rieccoci qui. Allora, a proposito delle vostre preoccupazioni, ovviamente legittime, voi siete all'avamposto, insomma, per quanto riguarda la scuola, la questione delle decine di migliaia di locali in tutta Italia che serviranno perché non ci sono sufficienti scuole adatte, no, ad accogliere poi in sicurezza le ragazze e i ragazzi a settembre, riprende un po' una cosa che già aveva detto la ministra Azzolina. Sì, perché la ministra appunto faceva riferimento a una prima stima grossolana, quindi dobbiamo prenderla ovviamente con le molle, del 15% dei locali non adatti a contenere il numero di studenti in modo tale da distanziarli. Allora è chiaro che se noi andiamo a calcolare rispetto agli 8 milioni e mezzo degli studenti che ci sono in Italia, un 15% viene fuori 1,2 milioni, 1,3 milioni. Quindi questo sarebbe il numero di studenti a cui dobbiamo trovare una sistemazione. Per farsi un'idea di quante possano essere le aule, possiamo dividere questo numero per 25, faccio per dire, che è un numero di occupazione normale delle nostre aule, viene fuori 48.000. Quindi, insomma, diciamo tra 40 e 50 mila aule servirebbero. Parlava la ministra Azzolina, ecco, giorni fa, di teatri, di cinema. È possibile? Voi come la vedete queste possibili alternative? Ma è un'ipotesi molto residuale, per la verità, perché insomma adesso non credo che mettendo insieme il cinema e il teatro si riesca ad arrivare a numeri di questi tipi. La prima possibilità da esplorare è quella che negli edifici scolastici di recente costruzione, ci tengo a sottolineare questa aspetto, potrebbero essere attuabili degli interventi di cosiddetta edilizia leggera. Se abbiamo una scuola moderna con delle pareti leggere di cartongesso, di tramezzo, e per esempio vicino a un'aula c'è un ripostiglio di cui si può fare a meno, si possono abbattere i tramezzi tra l'aula e il ripostiglio e ingrandire un po' l'aula. Oppure, se il corridoio è molto largo, si può prendere parte del corridoio, spostare un po' il tramezzo delle aule e ingrandire così le aule. Un'altra possibilità è, se la scuola avesse dei cortili, dei giardini, di montare delle tensostrutture. Questo però non si può fare laddove le scuole sono più vecchie, e noi abbiamo molte scuole vecchie, e magari senza spazi verdi, senza spazi all'aperto. Allora lì diventa gioco forza reperire aule ulteriori in altri edifici. Qualora questo non fosse possibile, bisogna ricorrere magari all'affitto di locali. I fondi sono stati messi a disposizione degli enti locali, quindi anche questa strada è viabile. Poi, come ultima razio, si può anche arrivare a pensare a queste cose che si dicevano, magari cinema non utilizzati, teatri. Comunque è chiaro che il reperimento va fatto in fretta, perché settembre praticamente è dietro l'angolo. Invece, per quanto riguarda i test, che già il ministro Speranza della Salute nei giorni scorsi aveva detto, su proposta, su progetto del Comitato Tecnico Scientifico, test sierologici da fare a insegnanti e personale amministrativo 2 settimane, mi pare, prima dell'inizio della scuola, no? Bah, sì, se ne sta parlando. Tutto sommato direi che è una misura utile, perché se l'autorità sanitaria ci dice che questa è una misura utile sia alla prevenzione, sia al monitoraggio, al tracciamento, tutto quello che vogliamo, mi sembra una valida ragione. D'altronde noi chiediamo a questo punto che si facciano anche agli studenti, perché gli studenti sono il veicolo dell'epidemia. Adesso adesso poveretti, insomma, nessuno mi faccia sono lo iuntori, però è vero che si è detto che i più giovani magari non si ammalano gravemente, ma possono, stando infatti, tutti insieme, però possono trasmettere. Ora, da un lato a scuola possono trasmetterlo al personale, e sappiamo che il personale ha anche una certa età in media, insomma, non è personale giovanissimo, e dall'altro ci sono le famiglie, ci sono i nonni che potrebbero essere i più colpiti dalla pandemia, come sono stati. Quindi diventa un'operazione piuttosto ampia e complessa, Preside Giannelli, perché si tratta del personale amministrativo, degli insegnanti e di tutti gli studenti. Più o meno che numeri ha in mente, una cifra di quanti molto prima elevati, dell'inizio della scuola? Il personale è circa 1 milione di unità e gli studenti sono 8,5 milioni, quindi stiamo parlando di numeri molto importanti. Questo spero che aiuti qualcuno a capire perché è stato importante sospendere la didattica in presenza e perché è così difficile farla ripartire. Preside Giannelli, poi quest'altra cosa, invece un'altra preoccupazione che voi avete sottolineato, è la fuga dei neopresidi dal nord, cioè coloro che hanno vinto il concorso nel 2019, se non sbaglio, trovatisi presidi al nord, soprattutto appunto quelli provenienti dal sud, prima appunto con la pandemia che è arrivata virulenta, soprattutto come sappiamo al nord, e poi tutto il lockdown, si sono sentiti trovati isolati, lontano insomma dai loro paesi d'origine, e quindi è vero che adesso molti rinunciano piuttosto all'incarico di dirigenti scolastici, quindi di presidi, per tornare al sud come docenti, perché dicono che l'aumento di stipendio non vale la pena di fare una vita di questo tipo. Guardi, allora il problema esiste, adesso forse parlare di fuga è un po' eccessivo, però indubbiamente abbiamo manifestazioni in tanti colleghi che ci dicono intenzionati a ritornare a fare gli insegnanti. Perché? Perché, come diceva giustamente lei, magari sono arrivati dal sud al nord perché per varie ragioni, come sappiamo, sono più dipendenti pubblici di origine meridionale che settentrionale, però le scuole sono ovunque, si sono trovati bloccati, e quindi stiamo parlando di persone magari di una certa età, 50, 55, 60 anni, portati a centinaia di chilometri dalle famiglie, e il Covid praticamente li ha segregati in casa, in una casa presa in affitto, magari spesso con costi elevati, perché gli affitti al nord sono spesso più costosi che al sud, e quindi questa è stata una condizione di vita sicuramente molto disagevole, che sta inducendo qualcuno a rinunciare a questa opportunità, che peraltro gli è costato tanto in termini di studi, il superamento del concorso. Però, sarebbe un peccato. Però queste persone, appunto, queste risorse in meno che vengono perché al nord, perché tornano verso il sud, si possono compensare, riuscire, insomma, c'è una soluzione oppure diventa un problema? Allora, dal punto di vista del sistema scolastico la soluzione c'è, perché abbiamo la graduatoria, dobbiamo assumere altri dirigenti, quindi insomma possiamo prenderli da lì, però è un peccato che queste persone che hanno studiato con tanti sacrifici, si sono sobbarcati un anno sicuramente non facile, si vedano costretti a rinunciare. Tra l'altro le norme, le leggi del nostro paese prevedono una permanenza di almeno 3 anni all'inizio, anche se tutti sapevano che si trattava di un concorso nazionale, è chiaro che hanno sperato nella possibilità di ottenere una deroga. Noi stessi come sindacato abbiamo cercato di convincere il Ministero ad aiutarli da questo punto di vista, però non è stato possibile, quindi questa è la ragione principale di questa vicenda, che noi speriamo che possa essere limitata al massimo. Non resta allora che aggiornarci su tutti questi aspetti, Presidente Antonello Giannelli. La ringrazio intanto e buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutti. Ricordo Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buonasera. Oh, invece vedo che alcuni ascoltatori, qualcuno torna ancora sul decreto semplificazioni e il decreto Italia Veloce, dice per esempio Giuliano, ciao Roberta, viene nominata ancora la Salerno-Reggio Calabria, basta per piacere di qualcosa, eccetera, eccetera. Si sa che alcune opere in Italia, il completamento di alcune opere vanno avanti da decenni in Italia. Adesso invece vediamo come proseguono le partite con il nostro Dario Ricci di Serie A maschile, caro Dario. Eccoci qua Roberta, a San Siro è iniziato da circa 4 minuti. Milan-Juventus, risultato ancora sullo 0-0, nel Milan titolare chiaramente Ibrahimovic, ma c'è anche Rebic al suo fianco in attacco, o meglio nel pacchetto offensivo rossonero. La notizia per il momento però arriva da Lecce, dove la Lazio, che come ti ricordo è staccata di 7 punti in classifica dalla Juventus, è andata a sorpresa a KO contro i salentini impegnati nella lotta salvezza, 2-1 come già ti anticipavo nel precedente collegamento. Lazio in vantaggio al 5° minuto con Caicedo, bravo ad approfittare di un errore in disimpegno del portiere lecese Gabriel, che però poi per tutta la partita si dimostrerà di fatto insuperabile per gli attaccanti biancocelesti, e Lecce che trova il pareggio al 30° con un colpo di testa di Babacar, e che al 47° dopo che Mancosu alla fine del primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore, trova il vantaggio sempre con un colpo di testa, questa volta su azione di calcio d'angolo di Capitan Lucioni. Quindi Lecce che batte la Lazio sorpresa per 2-1, e a questo punto chiaramente anche la sfida di San Siro vede una Juventus che potrebbe al limite accontentarsi del pareggio, ma addirittura subire un indolore sconfitta, visto appunto il KO dei biancocelesti. Però partita di San Siro che è appena all'alba, siamo al 5° minuto, finora nulla di segnalare, 0-0. Dario, io segnalerei una cosa però. Dimmi. Io ho visto ancora sputare in campo. Ma questo Questo... venerdì mi pare ha fatto un primo piano su un giocatore, adesso non ricordo chi fosse, adesso non vorrei schifare chi magari ha appena cenato, sta per cenare. Banna. Non era neanche uno era un bolo che ha tirato fuori. Però aveva detto che il coronavirus almeno questa deprecabile. Che cavolo, però, vabbè, ma il campo è grande, anche l'erba è più verde certo. Quindi è importante, è tutto un humus che si crea, quindi io sono, come tu sai, mi sto tenendo lo stomaco. Sono assolutamente favorevole manifestazioni di gioia da parte dei calciatori e di macismo, certo. Grazie Dario Ricci, ciao, a presto, ciao caro Dario. Sempre alle 22.